Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Che qualcuno pensasse che questo è un programma in cui ogni giorno cerchiamo appositamente persone che hanno cambiato vita senza fare fatica, senza avere mai un momento di ripensamento, o che questa sia una trasmissione in cui noi vogliamo mostrarvi solo il lato bello del cambiare vita, nascondendo sotto il tappeto della radio tutte le avversità, le difficoltà, i ritorni, il momento in cui cambia vita si dice beh, non era come me l'immaginavo. Non vorrei, perché non è così. Noi ogni giorno cerchiamo gente che ha cambiato vita per farci raccontare le loro storie, e di solito troviamo gente che o è appena partita o sta partendo o comunque lì e non può nemmeno pensare per un secondo di aver fatto una scelta sbagliata o che forse poteva fare in un altro modo. E c'è quell'entusiasmo, quella gioia che magari a qualcuno fa pensare vabbè, ma questi sono tutti felici, sono tutti contenti, non c'è mai uno che c'ha un momento di ripensamento. Allora oggi noi andiamo a cercare persone che il cambiamento l'hanno fatto e che sono tornati o stanno tornando, quelli che il giro di vita l'hanno concluso, quelli che possono veramente trattare un bilancio di questa esperienza e dire com'è andata, dire se ci hanno guadagnato, se ci hanno perso, se lo rifarebbero, se non lo rifarebbero. Ecco, oggi lo andiamo a chiedere a persone che il giro di vita l'hanno fatto ma lo stanno anche rifacendo al contrario. Se anche voi siete partiti e siete tornati, se avete avuto un'esperienza di cambio vita e l'avete già chiusa, chiamateci per raccontarcela. Il numero è 800 24 00 24. Cosa vuoi? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è che vuoi che c'è? Andiamo, ci stanno aspettando, salta fuori dall'olive e andiamo, dai! Io non vengo, questa è la mia casa, io sono sposato, rimango qui io. Come rimani qui? Questi qua non ci aspettano, sono inglesi. Sei sposato ma questo matrimonio in Italia non vale, muoviti, andiamo via! Per me vale, vale moltissimo, moltissimo. Beh, allora porta anche lei, ma andiamo, non ci aspettano! Ma dove? Dove? Non ho casa, non ho lavoro, non ho niente, sono solo, perché dovrei partire? No! Torino sta cambiando tutto, c'è da rifare l'Italia, ricominciamo da zero, c'è grande confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Dai, andiamo, costruiremo un grande bel paese per viverci, te lo prometto, ma dai, è anche il nostro dovere. Ma che dovere, Nicola, lo hai detto anche tu, ti ricordi? Si sono dimenticati di noi, ecco, io voglio dimenticarmi di loro, rifare l'Italia, cambiare il mondo, io non ci credo, non sono capace, non so, io rimango qui. In un barile di olive, su un'isola deserta. Questa sarebbe la tua dimensione. Cavolo, io mi sento vivo per la prima volta qua, lo capisci questo? Vassilissa vuole aprire un ristorante. Lei ha bisogno di me. E questo era un dialogo fondamentale nel corso del film Mediterraneo tra Abate Antuono e Cederna, uno che voleva tornare in Italia, non vedeva l'ora, bisogna tornare, bisogna cambiare il paese, bisogna impegnarsi, e l'altro che diceva no, ma chi me lo fa fare, io sto qui. L'ho rivisto questo pezzo ieri per il programma di oggi, e perché insomma parleremo di una storia che è ambientata in Grecia, perché parleremo di un ritorno, ma devo dire mi ha impressionato. Non ricordavo quanto questo pezzo del film fosse attinente al programma che facciamo tutti i giorni, l'isola deserta, il apro un ristorante, cioè, probabilmente in realtà noi parliamo di questo, parliamo di Mediterraneo, che non a caso era dedicato a tutti quelli che stanno scappando. Benvenuti, martedì 17 agosto, io sono Achille Corea, questa è Radio 24 e questo è Giro di Vita, il programma che ogni giorno vi racconta le storie di chi ha cambiato tutto e si è inventato un nuovo inizio. Oggi parliamo delle persone che tornano. Se volete partecipare sapete che abbiamo una mail che è girodivita@radio24.it e che abbiamo una pagina su Facebook che si chiama Giro di Vita, ma soprattutto che abbiamo un numero di telefono che è 800 24 00 24, in cui potete raccontarci le vostre storie e potete anche commentare insomma quello che noi diciamo e dirci, ad esempio quella che per me oggi è la domanda fondamentale: cambi vita, ritorni, e come la vivi, cosa ne pensi? Lo chiediamo ad Andrea, benvenuto. Ciao Achille, ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori anche di Radio 24. Grazie Andrea. Allora Andrea, tu a un certo punto hai cambiato vita e ci racconterai come, però la prima domanda che ti faccio è la data del ritorno, perché so che tu hai già un biglietto per l'Italia. Sì, la data del ritorno ormai è prossima, abbiamo deciso di passare tutta l'estate qui, quindi il 27 agosto abbiamo il biglietto della nave, il 28 se torniamo in Italia. Dopo quanti anni passati in Grecia? Io 8 e qualcosa. Ecco, mi racconti come hai scelto la Grecia e com'è che dall'Italia, dove so che eri un neolaureato in economia e commercio, se non ricordo male, hai deciso di andare in Grecia a fare tutt'altro? Guarda, è stata un po' una non scelta, perché 8 anni fa praticamente sapevo già da qualche anno che sarei andato in Grecia, in quanto avevo una storia con una ragazza greca. Poi dopo questa storia con la ragazza greca è finita, anni dopo io comunque ho deciso di rimanere in Grecia perché avevo fatto altre scelte. Che cosa hai fatto in questi 8 anni in Grecia? Guarda, le prime esperienze lavorative sono state presso aziende medio-piccole, classiche storie di sfruttamento, straordinari non pagati, contributi non versati, mi sono trovato anche molto male, quindi ero già vicino a un ritorno almeno 6 anni fa. Dopo c'è stata una piccola svolta, diciamo, perché ho voluto dare un'ultima chance al paese e ho mandato, ma proprio come ripiego dei curriculum, alle scuole di lingua dove si insegnava l'italiano, scuole private dove si insegnano italiano. E questo è il, diciamo, è un po' un tratto comune in moltissimi che non sanno bene cosa possono fare all'estero e finiscono per insegnare italiano, però per te è diventata un po' una seconda vita? Sì, a un certo punto sì, perché dopo 2 anni come professore, come dipendente presso la scuola, la mia ex datrice di lavoro mi ha proposto di diventare mia socia e di aprire a nostra volta una nuova filiale della scuola in un'altra zona della città. Ti chiedo un attimo una cifra, perché sennò poi chi ascolta si pensa, che si chiede, chissà che capitali ci sono dietro. Quanto costa aprire una scuola privata in Grecia come quella in cui eri socio tu? Guarda, chiaramente dipende dal posto e dalla dimensione che vuoi dare alla scuola. 5 anni fa, nella periferia salonicchese, aprire una scuola non richiedeva un investimento particolarmente oneroso. Diciamo, con 10-15 mila euro riuscivano ad aprire una scuola che poteva puntare ad avere anche fino a un'ottantina, un centinaio di studenti. Ecco, senti un attimo, io ho sentito per fortuna un po' di amore, perché poi diciamo la verità, l'amore è uno dei motori che cambia la vita delle persone, quindi tu hai detto sono andato per amore, poi quest'amore non c'era più, però sono rimasto in Grecia, però in tutti questi anni ci sarà stato altro amore, quindi sentiamo anche un po' Ludovica. Pronto Ludovica, benvenuta. Ciao Achille. Ludovica, tu di dove sei? Di dove sono? Io sono di Ancona. E sei in Grecia da quanti anni? Io sarei in Grecia ad ottobre da 4 anni. E che cosa ti ha portato in Grecia? Allora, mi hanno detto che devo dire amore, no, va bene, l'amore. E poi un insieme di cose. Beh, diciamolo, l'amore per Andrea, che abbiamo sentito. L'amore prima. Per Andrea. Cosa sì. Facevi in Italia? In Italia ero avvocato. In uno studio penalista, il lavoro mi piaceva molto, però non potevo essere autonoma economicamente. E quindi cosa sei andata a fare in Grecia? L'avvocato, diciamo, di rappresentanza, perché non è che proprio fosse, non potevo andare in tribunale perché il greco comunque era un grosso ostacolo, la lingua, e quindi facevo l'avvocato italiano in uno studio cosiddetto internazionale. Ma hai fatto un passaggio da pari a pari, cioè eri avvocato in Italia e sei diventato avvocato in Grecia al volo? Sì, cioè sono avvocato all'interno della Comunione Europea, sono comunque un avvocato, però poi se uno non sa la lingua non può esercitare, di fatto. Ho capito. Senti, ma domanda, come l'ha presa la famiglia un trasferimento in un'altra nazione per lasciando insomma anche un posto di prestigio per inseguire una storia? Guarda, ancora mia madre le vengono le lacrime agli occhi quando ci ripensa. Quando le ho detto che avrei lasciato tutto, non mi ha parlato per tipo una settimana, 2, e dopo se ne è fatta una ragione. Ecco, io torniamo un attimo ad Andrea, perché diciamo che questa avventura, appunto, tu ci hai detto all'inizio, sta finendo. Ci dici sinteticamente come mai, anche se visto il paese in cui vi siete trasferiti, credo che gli ascoltatori abbiano un vaghissimo sospetto? Guarda, in effetti, come puoi immaginare, c'è una crisi profonda che ha investito tutto il paese. Per quanto riguarda noi, poi in realtà è stata investita anche il settore da una crisi di settore, diciamo, la scuola. Quindi abbiamo iniziato a perdere clienti progressivamente, poi è arrivata la botta della crisi nazionale e lì ci siamo dovuti arrendere praticamente. Senti, ma voi se non ci fosse stata la crisi sareste tornati? Questa è la domanda. Devo confessare un po' amaramente che sì, perché sai, dopo 8 anni in realtà questo è diventato in qualche modo, per me almeno, ma credo anche ormai per Ludovica, un po' il nostro paese. 8 anni per me sono tanti, poi sono 8 anni sai, molto importanti, dai 30 ai 37 che sono stato qui. 29, quindi non 37. Sareste tornati? No, se la scuola avesse continuato ad andare bene come era, diciamo, inizialmente, probabilmente saremmo rimasti volentieri, anche perché poi sai, l'Italia non è lontana, quindi non è che ho perso completamente i contatti, vuoi via internet, ma anche perché comunque per le feste comandate si tornava sempre, siamo a un tiro di schioppo, come si dice, una nave da Igumenizza, siamo ad Ancona, noi siamo tutti e due marchigiani, quindi era relativamente semplice tornare. Ecco. Ludovica, cosa vi dava la Grecia che l'Italia non vi dava? Innanzitutto paradossalmente uno stipendio più alto di quello dell'Italia. Tu guadagnavi di più? Io guadagnavo di più in Grecia rispetto all'Italia, sì. E poi? E poi l'arachi, un delizioso superalcolico greco, la possibilità di imparare una nuova lingua, di parlare tante lingue, perché ogni volta c'erano persone spagnoli, tedeschi. E poi, non lo so, forse ritmi più rilassati, niente taglierino e toga da tribunale, che è una bella cosa. Lì sì, gli avvocati sono più informali? No, io non andavo in tribunale. Ecco, vabbè, quindi quello era un po' indipendente. E Andrea, invece, a te cosa dava di più la Grecia? Guarda, tante sono le cose che ci ha dato. Una delle cose che sto apprezzando proprio adesso, in questo momento, una delle ultime cose che mi sto godendo è che vicino a Salonicco c'è uno degli ultimi paradisi segreti, la penisola calcitica, che è una vera meraviglia, un posto da visitare che non è stato ancora preso d'assalto dai turisti, dove gli stereotipi di viviana memoria delle spiagge deserte con i pescatori greci ancora esistono in realtà, quindi... Scusa, ridì il posto dov'è, così non sarà più un paradiso segreto, almeno per gli ascoltatori di Radio 24. È la meravigliosa penisola calcidica, da dove peraltro io ci stiamo sentendo, sono qui adesso, siamo appena tornati dalla spiaggia, guarda. Mi risponda chi vuole, avete pensato a cosa farete in Italia? Io ho una mezza idea, diciamo, Ludovica, non lo so, vuol parlare... Un momento di grave un momento poco radiofonico, diciamo. No, vabbè, a volte un silenzio anche in radio dice comunque molto di più. Va bene, ragazzi, io chiudo con la domanda che per voi sapete è importante, visto che la valigia ce l'avete già pronta. La valigia e la zavorra. Allora, noi di solito chiediamo che cosa vi siete portati dalla vecchia vita alla nuova vita, cambiando vita, trasferendovi. A voi, visto che siete di ritorno, che la data è così prossima, vi chiedo che cosa vi portate dietro da quella che era la seconda vita. Cosa vi portate dietro dalla Grecia? Comunque io? Sì, sì, vai. Guarda, Andrea. Io mi porto dietro comunque un'esperienza imprenditoriale importante, perché poi portata avanti in un paese straniero, secondo me acquisisce un valore anche maggiore. Quindi, oltre ai posti meravigliosi della penisola calcidica, le spiagge vuote, eccetera, anche un'esperienza imprenditoriale importante e poi tante amicizie che ho fatto qui che resteranno comunque. Ludovica, aggiungi qualcosa in questa valigia? Ecco, io non vorrei sembrare prosaica e alcolizzata, ma io porterei l'arachi, perché tutti conoscono l'uso della Grecia, invece l'arachi è molto migliore. Ma meno male, perché di solito poi tutti gli italiani all'estero non fanno altro che lamentarsi delle cose gastronomiche che mancano. Vabbè, che cosa buttate, cosa abbandonate della vostra avventura greca? Andrea? Io, sempre parlando da ex imprenditore, diciamo che tra le soddisfazioni che mi hai dato essere qui, aprire una scuola, ho incontrato anche tante difficoltà, quindi abbandonerei tu cuore il mostro burocratico greco che è veramente duro affrontare. E anche lì sfatiamo un luogo comune sulla burocrazia peggiore del mondo. E... No, guarda, la Grecia se la gioca alla grande. No? Ludovica? Non tenne confronti. Ludovica, comunque io una risposta simile ad Andrea, il sistema sanitario greco, cioè una cosa da incubo. Va bene, vabbè, dai, abbiamo risollevato un po' chi rimane in Italia. Grazie Andrea, grazie Ludovica per essere stati con noi. 5 cose da non fare per non compromettere troppo un eventuale ritorno. Scrivere nella lettera di dimissioni cosa pensate davvero del posto in cui lavorate. Dire a tutti i vostri amici: se mi vedete tornare, sputatemi in un occhio. Dare il permesso ai vostri genitori di usare la vostra vecchia stanza come ripostiglio. Riempire la casa di oggetti di ogni tipo pensando: da qui chi mi sposta? Ogni 2 status di Facebook farne uno in cui ribadite quanto vi fanno pena quelli rimasti in Italia. Beh, insomma, sì, non sbilanciatevi troppo, perché i giri di vita sono sempre delle andate, ma a volte possono essere anche dei ritorni. Se volete raccontarci il vostro, 800240024 per dirci dove siete andati, cosa avete cambiato, che tipo di esperienza avete concluso nella vostra vita, così insomma tracciamo anche magari un pochino di bilanci e vediamo se effettivamente l'avete conclusa con piacere o meno, se vi è servita o meno, se vi siete pentiti o meno, e soprattutto affrontiamo questo problema, questo grosso problema del cambio vita, che è l'eventuale ritorno. E se lo facessi io? E proprio per parlare dell'annoso problema del ritorno e degli spostamenti e del rientrare da un cambio di vita, noi siamo al telefono con Riccardo Caserini. Benvenuto, Riccardo? Ah no, l'abbiamo forse perso, nel caso vediamo un attimo se riusciamo a recuperare Riccardo Caserini, che è autore di un libro che si chiama Mollo tutto e parto, che è dedicato all'anno sabbatico ma non solo. Fatemi, pronto Riccardo? No, è abbastanza, siamo abbastanza persi nel nulla con Riccardo, che purtroppo è in Scozia, già purtroppo per sua fortuna è in Scozia in questo periodo. Nel frattempo ne approfitto per raccogliere il plauso di Giuseppe su Facebook, che dice: viva il raki, che non si beve solo in Grecia ma anche in Albania e in Montenegro, anche se il migliore è quello di Creta. E quindi insomma effettivamente questo super alcolico che io non conoscevo sembra che raccolga un grande diciamo interesse per diciamo tra i nostri ascoltatori. Anche Marin scrive da Padova che è una bevanda albanese, si vede che insomma è diffusa. Riccardo, pronto? Eccomi qua, ciao Achille, ciao a tutti, sì. Mi sentite adesso? Ecco, sì, okay. Adesso ti sentiamo. E noi ti abbiamo chiamato perché tu hai scritto un libro e anche un sito che è annosabbatico.it, in cui parli molto di viaggio, di anno sabbatico, di cambiamenti di vita, però affronti anche molto quello che è un po' il grande dubbio di chi deve partire, di chi deve sganciarsi un attimo dalla routine, che è il problema del ritorno. Cioè io parto, ma poi quando torno come faccio? Chi lo sa, nel senso che spesso infatti dico che il ritorno è qualcosa da lasciare un po' nel dimenticatoio quando si organizza la partenza. È un po' provocatorio, ma vuol dire che quando uno parte, dipende poi perché viaggio, per far cosa, no? Questa è la domanda fondamentale. Il ritorno è talmente lontano, si cambierà talmente tanto durante un viaggio, se è un viaggio che davvero sgancia un po' dalle proprie radici e fa fare un cambiamento di vita, che è difficile anticiparlo. Per cui è vero che è un ostacolo, che fa un po' di paura, ma è anche vero che è difficilissimo prevederlo. Per cui tanto vale, dico provocatoriamente, non stare troppo a pensarci. Tu nel tuo libro hai scritto anche che noti una grossa differenza tra l'Italia e l'estero nella percezione delle partenze, dei cambiamenti e del ritorno. Cioè tu dici che all'estero è anche visto come un valore aggiunto, per usare un termine che si usa molto nell'ambito aziendale, l'essere partito, l'aver saputo affrontare un lungo viaggio o un cambiamento, mentre magari in Italia è visto come un segno di poca affidabilità. È vero, è verissimo, l'ho provato sulla mia pelle proprio al mio ritorno, perché al ritorno, rientrato in Italia, nei colloqui veniva visto in maniera, a volte come un po' una vacanza, no? Come se automaticamente fosse percepito come qualcosa che ci aveva pagato i genitori, no? Quindi pagato dai genitori, vacanza. In realtà all'estero viene percepito come qualcosa che una persona fa con determinazione, con organizzazione, con molta motivazione, quindi viene visto questo aspetto di gestione del cambiamento che, andando in ambito aziendale, è sempre più apprezzato. Qui l'ambito ritorno ritorna, nel senso che poi bisognerebbe riuscire anche in Italia, se uno rientra in Italia, a valorizzare questa esperienza traducendola magari un po' nei canoni più culturali italiani. Sta un po' cambiando, noto che un po' sta cambiando, le aziende iniziano a guardare con più attenzione chi ha fatto scelte di questo tipo. Quindi, anche tornando alla domanda di prima, il ritorno, se uno vuole rientrare nel meccanismo, chiamiamolo così, di prima, diventa un po' più semplice, nonostante magari la crisi, ma questo è un altro argomento. Senti, effettivamente, mentre tu stavi parlando, pensavo che il problema della percezione di un cambio vita come una cosa da ricchi, purtroppo c'è, adesso si parla molto anche sui giornali di downshifting, di rallentare, però la critica è sempre quella. Guarda, ti cito un SMS che abbiamo ricevuto ieri che un po' mi è dispiaciuto, perché una persona ha scritto grazie per questo programma che ci fa fantasticare, ci fa sognare, ma cambiare vita, partire, è roba da privilegiati, da elite. Invece no, capisco la persona, perché a volte, sempre un po' per la cultura italiana, ma non solo, questa cosa viene trasformata nel classico cliché, no? Cioè, che uno parte, cosa fa? Va a barcavela, camicia bianca, posto esotico. In questo caso sì, è una cosa un po' da ricchi, ma il vero cambiamento, il lasciare qualcosa di sicuro per fare una scelta di vita diversa, non è da ricchi. Ho conosciuto in viaggio gente, mi ricordo un mio carissimo amico, è un muratore giapponese che lavora 6 mesi e poi viaggia altri 6, non è ricco. Io ho sempre lavorato durante gli studi, non arrivo da una famiglia particolarmente ricca, per cui la maggior parte delle persone che fanno queste scelte sono persone normale, io sono un impiegato, quindi persona assolutamente normale. Dipende sono da cosa, da cosa si è disposti a rinunciare, anche insomma da quanta forza ci si dà. Sì. Grazie, sì. Riccardo, io ricordo il tuo libro che si chiama Mollo tutto e parlo, Mollo tutto e parto, dove ci sono storie su storie di viaggi, anni sabbatici e cambiamenti. Su miei passi cantava Adriano Celentano in questa canzone. Sentiamo se anche voi siete tornati sui vostri passi. 800 24 00 24. Pronto, Ciro? Ciao Achille, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori. Buon pomeriggio, Ciro. Da dove sei tornato? Dove eri andato e da dove sei tornato? Achille, io a furia di fare giri di vita mi sto attorcigliando su me stesso. Perché... No, non lo fare, stai ben ritto. No, mi spiego. Io sono di Napoli, navigavo, ero un ufficiale su una vita crociera. Decisi di andarmene a vivere a Rio de Janeiro, dopo esserci già stato anni prima, ed essermi innamorato della cultura del popolo brasiliano, dell'aria che si respira in Brasile. Poi decisi di andare a vivere a Rio perché navigavo, e nel momento in cui ero a casa decisi di stare là. E così poi ebbi la malsana idea di lasciare qualche curriculum in Italia, così, e fui chiamato da un'azienda che mi disse: guarda, tu tempo un mese per lavorare per noi se vuoi. Adesso cosa pensi di aver lasciato Rio? Non ho sbagliato una volta, 10.000 volte, ti spiego il perché. Io lasciai Rio nel dicembre del 2003, c'erano 43-45 gradi. Ritorno in Italia, prima di ritornare in Italia feci scalo a Madrid, c'erano già 6 gradi sotto zero, quindi immagina. Ma è una saudage legata solo al tempo meteorologico, no, o hai lasciato no. qualcosa di diverso? No, io ho lasciato il piacere e la gioia di vivere del popolo brasiliano e in particolar modo dei carioca, degli abitanti di Rio, perché per me non me ne vogliono gli altri brasiliani, ma il Brasile e il Rio de Janeiro. Va bene, Ciro, io ti ringrazio e andiamo a chiudere questa puntata dedicata a chi torna. O si viveva poi così bene in Italia. Non ci hanno lasciato cambiare niente. E allora gli ho detto, avete vinto voi, ma almeno non riuscirete a considerarmi vostro complice. Così gli ho detto. Sono venuto qui. Ecco, io volevo chiudere con una scena che richiamava quella iniziale, sempre da Mediterraneo, con Diego Abbatantuono, che era quello che se n'era tornato in Italia per rifare grandi cose e che poi se n'è tornato in Grecia perché si era pentito anche lui, perché i messaggi e le mail, che le telefonate che arrivano, un po' seguono questo trend. Chi parte ritorna, poi pensa sempre, perché sono tornato? Se non siete d'accordo, scriveteci a girodivita@radio24.it, oppure su Facebook, la nostra pagina è Giro di Vita, oppure lasciateci un messaggio in segreteria. Io ringrazio Valerio Rocchetti alla parte tecnica e Gloria Guerrera per l'assistenza. Torniamo domani, statemi bene. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.